On est en air, Maxime. Ok. Bon, salut tout le monde. Je vais dire un truc en italien d'abord pour les gens qui nous écoutent en italien. Buongiorno a tutte e a tutti. La traduzione si chiama Sa Flip. Vorremmo dirci un attimino che cosa sta succedendo in Francia, visto che le notizie sono decisamente molto poche. Sono già due mesi che la Francia si sta muovendo molto e abbiamo in collegamento telefonico Maxime, al quale andremo a domandare un po' che cosa sta succedendo. Bon, en général, Maxime, on te demanderait qu'est-ce qui se passe en France? Eh ben, il se passe quelque chose d'assez important, je pense, parce que ça fait maintenant quasiment 3 mois que les gens sont dans la rue, les gens ont arrêté de rester un peu endormis et ont décidé de dire non à tout ce qui se passait, à tous ces projets du gouvernement qui en fait sont assez injustes. Et en fait, je pense plus largement à tout ce projet de société qui est en fait en train de détruire tous les acquis sociaux et tout le service public qu'on connaît en France. Beh, io intanto traduco al volo, dicevi che sono 2 mesi che la gente è per strada, che stanno protestando per una vita migliore e soprattutto per tutti i progetti pubblici che stanno venendo dismessi. Quand tu parles des projets publics qui viennent dismessi, lesquels en particulier? En ce moment, comme tu dois savoir, ça parle surtout de la retraite qui... en fait, il y a avant que Macron soit président, donc la première élection, c'était 60 ans et ils ont déjà passé à 62 et maintenant ils veulent passer à 64 ans, l'âge minimum pour pouvoir partir à la retraite. Et à l'intérieur de ce projet, en fait, il y a maintenant une espèce d'annulation de tous les régimes spéciaux, ça veut dire les gens qui avaient des travaux un peu plus pénibles. Par exemple, les gens qui travaillent dans les usines ou qui ramassent les poubelles ou qui font des choses un peu difficiles, il y en a beaucoup en fait qui vont perdre des avantages et maintenant c'est un peu tout le monde pareil, alors que tous les métiers sont pas aussi difficiles les uns que les autres. Come sai, come sapete, la maggior parte delle proteste si riguardano, o meglio, sono partite riguardanti le pensioni, le quali sono state, l'età pensionabile è stata innalzata dai 60 ai 62 anni, ma adesso stanno parlando di 64, e questo va a colpire soprattutto le persone che lavorano con dei regimi speciali, insomma, le persone più deboli e con delle difese meno forti che perdono anche i vantaggi che avevano. Ti vorrei domandare qualcosa anche in particolare, se oltre la questione pensioni, quali altre questioni sono in gioco? Je voudrais te demander, à part les retraites, quelle autre question sont en jeu en ce moment? Bah, finalement, un peu tout, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un rejet global de toute une vision. En fait, bon, après, il faut savoir que il y a beaucoup de monde dans la rue en ce moment et tout le monde ne pense pas exactement la même chose. En fait, finalement, les gens sont réunis parce qu'ils ont envie de dire stop et de dire non au gouvernement. Mais après, il y a la partie un peu plus jeune du mouvement, donc qui est aussi peut-être utilise aussi la question des retraites comme un élément un peu de démarrage d'un mouvement. Mais finalement, on est aussi préoccupé par toutes les questions d'écologie et toutes les questions évidemment de lutte contre le système capitaliste qui est hyper protégé par le pouvoir politique en fait. Et donc il y a finalement à la fois 1000 sujets et un seul sujet qui est le refus du capitalisme à tout prix contre en fait l'aspect humain de la politique en France, quoi. Tutto è partito in effetti dalla riforma delle pensioni, ma si è trasformato in un rifiuto globale su altre tematiche, in particolare quella ecologica e quella del sistema capitalista del quale siamo soggetti. E se è partita e c'erano 1000 soggetti diversi con 1000 tematiche differenti, adesso si sta trasformando in un particolare soggetto che protesta la forma capitalista. Maxime, j'aimerais te demander à propos de l'eau et de la privatisation de l'eau, parce que ça, c'est Oui. un gros sujet et c'est peut-être un sujet qui va venir aussi en Italie. Volevo domandarti riguardante la privatizzazione dell'acqua e di come sta avvenendo, e questo è un argomento che potrebbe interessarci molto anche qua. Oui, alors donc oui, il y a eu aussi en même temps que cette mobilisation pour les retraites, il y a eu un gros événement il y a maintenant 3 semaines, si je ne me trompe pas, qui était la manifestation contre la mégabassine de Sainte-Soline. Donc les mégabassines, pour résumer, c'est juste une tentative en fait de réappropriation de l'eau en fait qui est quand même un bien public qui appartient à tout le monde, mais qui se retrouve un peu réapproprié et stocké pour un usage industriel intensif qui en fait correspond à une vision un peu maintenant obsolète de l'agriculture pour beaucoup de gens dont je fais partie, parce que maintenant il est temps de dépasser ce modèle. Mais au contraire, en fait, les ressources sont maintenant réquisitionnées pour alimenter un peu ce système de grosse industrie agroalimentaire. Et donc, une bonne partie de ces mégabassines, parce qu'il y a beaucoup de projets, ont été en fait jugées illégales, mais celle-là en particulier a été acceptée. Donc, les gens sont allés manifester. Et il y a eu une répression policière extrêmement violente. Vous avez dû en entendre parler. Il y a eu plus de 200 blessés graves, il y a 3 personnes dans le coma, quelqu'un qui va probablement mourir, on pense, parce que c'est en état très critique, et avec vraiment un usage très violent de la force par la police, alors que finalement, il n'y a pas grand-chose à protéger, puisqu'il s'agit juste d'un trou avec de l'eau dedans. Donc on ne peut pas dire que la police protégeait des bâtiments ou des personnes en fait. Donc c'est vraiment le projet de dire attention, ce qui est un bien public va devenir maintenant privatisé, il va falloir se battre pour pouvoir le récupérer. E una delle, a proposito dell'acqua, c'è stato 3 settimane fa la protesta al megabacino di Sensolin. Dice, ne avrete probabilmente sentito parlare, in realtà i media italiani non ne hanno parlato. Si tratta di un bacino industriale costruito in maniera assolutamente obsoleta, e la protesta è stata repressa in maniera estremamente violenta. Ci sono stati più di 200 feriti. 3 persone sono in coma e una persona è in questo momento in uno stato gravissimo. La violenza è stata enorme da parte della polizia ed è significativo notare che non c'era nulla da proteggere. Si è trattata semplicemente di una dimostrazione di forza per dimostrare che ciò che era un bene pubblico adesso sta diventando privato. Maxima, con noi c'è un altro compagno, Nemo, e ha una domanda, te lo passo. Salut Maxime, je voulais te demander si qu'est-ce que tu penses de cette de privatisation progressive de réseaux et si il y a de moyens pour l'éviter. Donc, si j'ai bien compris, tu parles des ressources en général, pas que de l'eau. Oui, de l'eau en ce cas-là, mais aussi d'autres typologies. Bah, c'est compliqué parce que c'est vraiment très. Je pense que personne n'a envie de regarder ça en face parce que c'est très effrayant en fait de penser que on arrive peut-être dans un système où ce qui nous paraît être acquis et vital et qui fait partie des droits fondamentaux de l'être humain vont peut-être se retrouver en danger. Donc, je pense qu'il est urgent de bien montrer qu'on n'est pas d'accord avec cette marchandisation et cette réappropriation d'un bien public on sait qu'il va manquer d'eau de toute façon. Et eux, ils le savent très bien, les industriels et les politiques. C'est pour ça qu'ils agissent dès maintenant pour mettre ça de côté. Et c'est vrai que si nous, la population, on réagit pas très vite, on va se faire dépasser. et ça sera trop tard. Donc je pense que on n'a pas envie de voir ça, on n'a pas envie de penser à ça maintenant parce qu'il y a beaucoup d'autres combats, on sort à peine d'une pandémie qui a été quand même très compliquée à gérer. Mais là, il se passe quelque chose de très très important, un peu discrètement en fait. Donc finalement, le Sainte-Soline, c'était intéressant parce que ça a permis de mettre le débat en fait un peu aux deux, enfin, en première page des informations en France parce que personne n'en parlait avant. Et au départ, c'était aussi une stratégie de communication politique de montrer que voilà, les manifestants et les activistes écologistes étaient très dangereux. Et donc la stratégie, c'était d'en parler pour dire, regardez, voilà, la police a été obligée d'employer des grands moyens parce que ces gens sont un peu des éco-terroristes, hein. Ce terme a été utilisé par le gouvernement. Mais finalement, comme ce gouvernement est aussi un peu stupide, ils n'ont pas compris que, à en parler beaucoup, les gens allaient enfin comprendre ce que c'était et que finalement, c'était une bonne chose pour la cause, en fait. Donc, je pense que le plus gros problème dans tout ça, c'est que les gens ne sont pas informés et donc bah, ne n'agissent pas trop, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est expliquer aux gens ce que c'est, parce qu'il y a aussi beaucoup de désinformation. Il y a des gens qui vont dire, mais vous n'avez pas compris que les mégabassines, c'est très bien pour l'écologie. Mais ce sont en fait, des discours qui sont en fait des mensonges. Donc voilà, pour répondre un peu longuement à la question, je pense que la première priorité, c'est vraiment l'information pour que les gens comprennent ce qui se passe vraiment et voient que bah, c'est urgent de comprendre qu'il est en train de se passer quelque chose d'assez important. La prima parte dalla fine, la cosa più importante è che la gente capisca che cosa sta succedendo, cioè la privatizzazione dei beni pubblici avrà delle conseguenze gravissime e questo pensiamo che sia inammissibile, fare in modo che non avvenga, ma vorremmo anche che la gente capisca che cosa stia avvenendo. Fa paura un sistema che è un sistema vitale come potrebbe essere quello dell'accesso all'acqua, si trova in pericolo, ma gli industriali, il sistema capitalista in generale sa che questa cosa sta per avvenire anche per le conseguenze della crisi climatica e si stanno portando avanti con la costruzione di questi mega bacini privati. Inizialmente il governo, che è abbastanza stupido, ha cercato di criminalizzare in maniera pesante i movimenti che si opponevano alla privatizzazione dell'acqua e in particolare chiamandoli ecoterroristi come dei personaggi estremamente pericolosi. L'errore è stato che continuando a parlarne la gente si è resa conto che il problema esisteva davvero e dunque hanno cominciato a partecipare anche da un punto di vista collettivo alle lotte. Massimo, una domanda che vorrei farti era come stanno avvenendo in questo momento le manifestazioni. Mi hai detto una cosa l'altro giorno che mi aveva colpito, mi hai detto ci stiamo abituando agli scontri duri perché sono già più di 2 mesi. Je voulais te demander parce qu'un truc qui m'avait frappé l'autre jour, c'est quand tu m'avais dit que, à propos de comment ça se passe les manifs, tu m'avais dit on est en train de s'habituer à la dureté. Des manifs en ce moment. Oui. Eh ben oui, c'est tout à fait ça, en fait. Au début du mouvement, eh bien, quand la police, voilà, lance des grenades et est assez offensive, voilà, ça fait un peu peur. C'est impressionnant, hein. C'est bruyant, c'est violent, c'est intense. Mais finalement, on s'habitue parce que bah, ça arrive une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois. Et au bout de 30 fois, c'est devenu l'habitude et on n'a plus peur. Hein. Les gens se mettent devant et attendent. Et bien sûr, il faut faire attention parce que c'est dangereux. Heureusement, pour l'instant, il n'y a pas eu de mort, mais c'est un peu un miracle, je pense, parce que ça pourrait très bien arriver. Mais en fait, c'est important de montrer à la police aussi qu'on n'a pas peur, puisque c'est vraiment la stratégie unique du gouvernement pour en fait éteindre le mouvement social, c'est de voilà de d'éteindre le mouvement par la peur en fait. Et beaucoup de gens, on sait que quand il y a un peu des sondages, il y a beaucoup de gens qui disent soutenir la réforme, pardon, soutenir le combat contre la réforme, mais qui ne va pas en manifestation parce que voilà, ils ont peur. Voilà, il y a des gens qui ont vécu les manifestations des Gilets jaunes et qui sont un petit peu marqués par les violences. Les gens qui étaient à Sainte-Soline, on en parlait juste avant, donc moi j'y étais pas, mais j'ai entendu des gens, des témoignages, et il y a beaucoup de gens qui sont très choqués en fait et qui sont un peu en état de stress post-traumatique. Donc évidemment, c'est impressionnant, mais c'est aussi peut-être quelque chose que si on peut, on peut dépasser. Et si la peur ne marche pas, et bien finalement, ils pourront plus nous arrêter. Après, voilà, c'est pas pour tout le monde, hein. Être en première ligne des manifestations, il y a des gens qui voilà, que ça peut angoisser, ça peut être intimidant. Donc, je dis pas que tout le monde doit être courageux et doit être, comment dirais-je, eh ben, doit s'obliger à ne pas avoir peur. Et c'est OK d'avoir peur, mais finalement, avec un petit peu d'habitude, c'est plus facile de faire face à la police et de s'habituer, comme je te disais. Je sais pas trop comment dire mieux que ça. Beh, all'inizio è una cosa che fa paura. Le manifestazioni in questo momento sono violente, sono rumorose, sono molto molto intense, ma è diventata una questione d'abitudine, nel senso che la prima volta fa paura, la seconda anche, la ventesima o la trentesima volta non fa più paura. La paura è una parola importante perché la strategia del governo per spegnere il movimento è quello di spaventarlo e dunque di reagire con molta forza e direi che se riusciamo, come sta avvenendo, a sorpassare la fase di paura, anche se chiaramente le stare davanti durante una manifestazione in questo momento non è esattamente per chiunque, direi che l'obiettivo è quello di non avere paura. Maxime, je te demanderai la toute dernière question, mais merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. La santé publique, ça c'est un argument que pour nous c'est très important parce que c'est important d'abord, mais parce que aussi on sort d'une épidémie globale. Et donc on aurait dû apprendre comme leçon sortant de l'épidémie que la santé publique était basique, très importante. Apparemment, c'est pas ça. Et volevo domandarti, Maxime, una parola di quello che sta succedendo nella sanità pubblica lato francese, che è chiaramente molto importante anche per noi e ci stupisce un po' che uscendo da una pandemia non si sia rilevato come la sanità pubblica sia un elemento essenziale per una società. Non, bah, évidemment, c'est la catastrophe. Voilà, la pandémie n'a rien changé. Malgré les beaux discours qui avaient lieu à l'époque, le gouvernement a continué de fermer des lits, c'est-à-dire de réduire les places disponibles dans les hôpitaux. Voilà, le personnel de l'hôpital, que ce soit les médecins et les infirmiers, infirmières, sont complètement débordés. Vraiment, ils ont une charge de travail énorme. Ils sont en manifestation et en grève régulière depuis même avant la pandémie, mais rien ne change et c'est de pire en pire. Il y a plus de médecins dans les campagnes. Il y a plein d'endroits où les gens sont obligés d'aller très loin pour avoir des soins. Les médecins, c'est pareil, il y en a beaucoup qui prennent plus de patients parce qu'ils en ont trop. Donc, quand des gens déménagent, changent de quartier, changent de ville, ils n'arrivent pas à trouver des médecins, et je parle de médecins généralistes. Les spécialistes, c'est pareil, c'est la catastrophe. Je me souviens qu'on en a parlé l'autre soir au repas, mais moi j'ai beaucoup d'amis, donc des filles qui ont besoin de soins, par exemple chez des gynécologistes, et là il y a des attentes de plus de 6 mois pour avoir un rendez-vous. La même chose pour les dentistes. Enfin, c'est vraiment un gros problème et ça va être encore une espèce de nouvel état des choses où, en fait, voilà, bah, ceux qui sont riches auront accès aux meilleurs soins parce qu'ils iront dans des cliniques et iront voir des spécialistes renommés et ça coûtera plus cher, ils pourront le faire. Et les gens pauvres, eh ben, se retrouveront mal soignés. Mais on est déjà dans cette réalité, hein. Donc c'est pareil, mais de toute façon, on peut dire de la même chose de l'école, on peut dire la même chose. Donc évidemment, on l'a dit pour les retraites, on peut dire la même chose pour les transports publics. Tout ce qui est vraiment le service public, c'est vraiment en train de dégringoler complètement en France. Donc moi, je suis à un âge, en fait, j'ai pas encore 40 ans, je suis dans la fin de ma trentaine. Et donc, j'ai vu quand même dans ma vie, qui est pas si longue mais pas si courte, ça dépend de quel point de vue on se passe, mais j'ai vu tout ça s'effondrer en fait. Et donc, ça se fait pas en 100 ans, hein, ça se fait pas en. Ça, c'est en train de se faire en 10-15 ans entre le moment où j'étais peut-être adolescent, jeune adulte, jusqu'à maintenant. Les choses changent complètement en fait et ça se voit à vue d'œil. Sì, è la catastrofe. Malgrado i bei discorsi che ogni tanto avvengono, i posti pubblici nella sanità sono diminuiti, i medici che lavorano hanno un carico di lavoro enorme, non si trovano medici nelle campagne, la gente se cambia leggermente la sua posizione, per esempio se solo cambia quartiere all'interno della stessa città, rischia di non riuscire a trovare nuovamente il medico di base, il medico generalista. In particolare potrei fare un mi preme fare l'esempio dei consultori e dell'ambito ginecologico che sono bloccati. Per accedere a una visita ci vogliono mesi in questo momento per le donne e questo rischia di essere un nuovo stato delle cose dove i ricchi hanno la possibilità di usare le cliniche private e i poveri semplicemente no. Io non ho ancora 40 anni e dunque ho vissuto un po', ma ancora non tantissimo, ma ho fatto in tempo a vedere una società diversa. E sono cambiamenti che non richiedono centinaia di anni, sono abbastanza veloci. Nel giro degli ultimi 10-15 anni le cose sono cambiate moltissimo e questo non riguarda solamente la sanità, ma riguarda chiaramente tutti i servizi essenziali, cioè la scuola, i trasporti e ovviamente le pensioni. Maxime, on t'a demandé beaucoup. Est-ce que si tu veux nous dire quelque chose sans qu'on te demande, à toi l'espace, sinon on te Non, non, bah, remercie. non, non, bah, merci de m'avoir appelé. J'espère que j'ai pu bien répondre à vos questions. Comme je te disais, j'étais un peu fatigué parce que je faisais un concert hier soir assez tard et donc j'ai pas beaucoup dormi. Et donc voilà, j'espère que c'était intelligible. Et merci de m'avoir invité. Ça l'était tout à fait. Ok. Solidarité, grève et sabotage. Au revoir, Maxime. Bah, Merci. pareil. Ouais, bon courage et j'espère que vous reprendrez le flambeau en Italie de mener votre propre lutte aussi. Grazie, grazie. Bye. Bye. E quello che ci ha appena detto Maxime è stato, oltre ai ringraziamenti, ha detto che è un po' stanco, spera che tutto fosse intelligibile e ci ha augurato di riprendere in mano la situazione anche in Italia, visto che il problema è comune e noi adesso mettiamo una musica. Things get messy. Keep pushing. E abbiamo sentito adesso da Maxim come ci siano una serie di questioni a cui non si può più evitare di far fronte e che in qualche modo sono riuscite ad accomunare e a creare dei percorsi condivisi, a unire le persone e a portare avanti delle lotte trasversali che non riguardano esclusivamente il problema da cui nascono, come appunto il caso delle pensioni in questo caso, ma che possono soltanto aprire la strada a un percorso condiviso e a un cambiamento che si fa sempre più inevitabile. Lo slogan che viene usato in questo momento in Francia è solidarietà, sciopero, sabotaggio. Qui pense que j'aurais besoin que l'on m'aide, tandis que mon psy dit que j'aurais plutôt besoin qu'on m'aide. Le temps qui passe nous mène toujours face à nous-mêmes. Si ce n'est pas moi qui résoudra mes problèmes, on m'a dit, tu prends trop la tête, essaye de mieux voir combien la vie est belle, la vie. T'ouvre les bras, je me suis dit, ah ça la vie est belle. Peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve, vêtu d'or et de soie. Je me vois comme un vaurien. Papa m'a dit ce n'est pas un métier de musicien. Laisse-moi fermer les yeux au moins jusqu'à demain. On m'a dit tu prends trop la tête. Tu prends trop la tête. On m'a dit tu prends trop la tête. Essaye de me voir combien la vie est belle. La vie t'ouvre les bras. Je suis dit ah ça la vie est belle. Peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve. Mais tu dors et tu sois. La tête, essaye de mieux voir combien la vie est belle. La vie t'ouvre les bras, je me suis dit, ah ça, la vie est belle. Peut-être pour toi qui vis comme dans un rêve, vêtu d'or et de soie. Stavamo cercando appunto di notare come questa situazione che Maxime ci raccontava sul bacino idrico di Saint-Solien si inserisce perfettamente nella privatizzazione progressiva delle risorse che come appunto accaduto a Saint-Solien sta accadendo, anche noi qui abbiamo avuto modo di sentirla sulla nostra pelle nella scuola, nel trasporto pubblico, nella medicina pubblica, e che fa parte di una strategia che attraverso una sua gradualità, attraverso un percorso, una serie di leggi emanate in più anni, portano ad alzare la temperatura della pentola in cui la rana sta cuocendo poco per volta, così che questa non si agiti e scappi, ma che rimanga sempre più intorpidita e ci lasci le penne. Ecco, vediamo di non fare la fine della rana. Una cosa che tenevamo molto a dire, anzi che abbiamo detto nel minuto di silenzio, che potremmo anche tacere, È che non, il nostro intervento, questo momento di aggiornamento dalla Francia, l'abbiamo costruito sulle spalle di chi è venuto prima di noi e in particolare vorremmo ricordare il centro sociale Cox 18 di Milano, dove il 1 aprile si è tenuto un incontro chiamato Voci dalla Francia e ci ha portato il primo grosso un grosso aggiornamento su quello che stava avvenendo nelle strade e a livello politico francese. E il Centro Sociale ZAM, sempre di Milano, il quale già a fine febbraio fece un incontro chiamato un incontro con il gruppo di Soulèvement de la Terre, cioè il sollevamento della terra, letteralmente la traduzione, e gruppo ecologista, il quale in seguito è stato a Saint-Solin, nella protesta contro il bacino idrico artificiale di cui abbiamo parlato prima. Adesso ci dovremmo essere relativamente rilassati per quello che riguarda microfoni, livello, connessioni, non dovremmo fare più errori. Ci perdonerete degli errori che abbiamo fatto prima, non l'abbiamo fatto di cattiva volontà. E adesso che siamo più rilassati, vi passeremo un pezzo musicale annunciandolo anche. Abbiamo scelto di passare chiaramente solo musica francese. Questi dunque sono gli ACAB che ci canteranno Black Bloc. Notre étoile jaune et noire, notre vie en rose et noir. Oui, notre sang bleu et noir, notre drapeau rouge et noir, notre étoile jaune et noire, notre vie en una cosa che ci interesserà parlare anche in eventuali nuove puntate sono le modalità di protesta. E una che vorremmo citare adesso è che quello che sta avvenendo in Francia è particolare per quello che riguarda la testa del corteo, che viene chiamata la tête, dunque la testa, dove liberamente si incontrano le persone non per forza appartenenti, ma potrebbero anche esserle, ai sindacati o alle altre sigle che partecipano al corteo, che intendono, che sono disponibili a confrontarsi in maniera anche diretta con le forze del disordine che in questo momento sono particolarmente violente. Ricordiamo che, per esempio, a Saint-Solin e anche in Francia prima, ma la prima volta avvenne durante le proteste dei Gilets Jaunes qualche anno fa, la polizia ha adottato diverse tecniche nuove, tra cui la fondazione di un nuovo corpo di polizia chiamato gli Embraves, i quali si muovono in motocicletta, quello dietro ha il casco bianco, quello davanti ha il casco nero, e riescono in questo modo a muoversi a una decina di motociclette alla volta, a muoversi molto rapidamente in un centro urbano e a precipitarsi dove desiderano farlo, colpendo in maniera molto violenta. Questa modalità è stata ripresa recentemente a Parigi. E in particolare a Saint-Solin si sono visti nuovamente, questa volta non con delle motociclette normali, ma con delle motociclette che non so come si chiamino esattamente, a quattro ruote, e dunque fatte apposta per andare su terreni sconnessi o in campagna. La violenza è stata progressiva di tipo militare e ha visto anche sparare delle granate, in particolare la persona che è gravissima in ospedale, Serge, è stato colpito da una granata sparata ad altezza uomo che gli è esplosa vicino alla testa. E questi sono atteggiamenti assolutamente militari di difesa, tra l'altro, come ci ricordava Maxime, di un luogo che non era particolarmente a rischio di nulla, se non era un bacino artificiale. Un'altra tecnica che viene utilizzata, nella testa del corteo, mi ricordano, non ci sono solamente le persone più attive nell'azione diretta, ma ci sono anche persone che intendano sostenere queste azioni e lo fanno portando il loro numero, cioè permettendo di essere una folla, o anche semplicemente portando bottiglie d'acqua, dedicandosi a mettere al sicuro eventuali feriti e in generale dando una mano come possibile. E questo ci ricorda un poco quello che avvenne qualche anno fa durante le proteste di Hong Kong, quando ci fu una progressiva organizzazione e anche un piccolo travaso successivo con le proteste di Black Lives Matter negli Stati Uniti, dove i manifestanti prendevano decisamente dei ruoli. Addirittura a Hong Kong c'era il ruolo del pompiere che si dedicava a spegnere fumogeni o eventuali, insomma, granate, in modo che risultassero inoffensive o a rilanciarle dall'altra parte. E proprio a Hong Kong furono utilizzate da parte della polizia la tecnica di lanciare da un camioncino della vernice colorata, quasi indelebile, in modo da macchiare i vestiti o il corpo delle persone ed eventualmente poterle riconoscere durante il ritorno a casa. Il ritorno a casa dopo i cortei è una cosa delicata e a Hong Kong, per esempio, i manifestanti erano obbligati a cambiarsi d'abito in modo da poter prendere la metropolitana senza essere presi da una retata della polizia. E questa tecnica della macchiatura dei vestiti è stata ripresa in Francia, e dunque a Saint-Solin in effetti si sono visti dei marcatori inseriti nell'acqua degli idranti o nei lacrimogeni, e attraverso questi additivi sarebbe possibile, anche a distanza di qualche settimana, rilevare l'esposizione delle persone che hanno partecipato al corteo. E dunque un altro pezzo musicale. Questi invece sono un vecchio gruppo punk rock francese, si chiamano i Beurrier Noir, qui l'accento è incredibile, e Vivre libre o mourir, a voi. Sulle possibilità di azione della testa del corteo, che sicuramente insomma fanno sognare, ecco, volevo far un attimo notare che comunque la folla nel corteo ha una certa importanza, e l'unione che appunto certe questioni possono creare si può sfruttare anche per lotte che sono condivisibili solo in parte, e in qualche modo auto-organizzare un corteo già in essere, piuttosto che non organizzarlo a priori e gestirlo, senza per questo appunto dover sottostare ai sindacati, che però fanno parte comunque del corteo e che anzi possono fare una parte anche importante a volte. Poi chiaramente finalità, metodi differenti, ma diciamo che da quello che ho visto, insomma, nei cortei in Francia ci si prende lo spazio che si riesce a strappare, e qua non mi sembra troppo diverso. Inoltre volevo giusto dire che sull'organizzazione generale di lotte, di informazioni, segnalo a chiunque può essere interessato Infokiosk, che è infokiosk.net, che è un sito di condivisione di materiali divulgativi, fanzine, piuttosto che brochure tecniche, meno tecniche, politiche di vario tipo, alcune in francese, alcune in inglese, altre persino in italiano. E poi Parilut per la zona di Parigi, che appunto riesce a mandare quasi in diretta una serie di informazioni sul territorio locale, che non è da poco. Questo piccolo estratto di un audio da una manifestazione francese è diventato popolare anche in Italia, nel senso che è stato riportato da diverse fonti. E è stato chiesto, è stato notato, tipo, ma che cos'è che dicono esattamente? Pensioni, clima, stessa lotta. Niente pensionati su un pianeta in fiamme. Tassate i ricchi. Credo che siamo arrivati a fine trasmissione. Nemo, grazie di essere stato con noi. Nemo è un compagno che è tornato dalla Francia non molto tempo fa, non so neanche se abbiamo avuto il tempo di dirlo in partenza. Ringraziamo Maxime, se è ancora all'ascolto, il compagno francese che è stato con noi all'inizio della trasmissione. Beh, ringraziamo anche te, Dan, e le potenti infrastrutture tecniche qui. E poi volevo salutarvi con un'immagine molto simpatica di Parigi quando, insomma, l'ho lasciata 3 settimane fa, completamente invasa da rifiuti. Che ovviamente la greve vuol dire anche questo, creare disagi e quindi strade lastricate di sacchi della monnezza e gente che non riesce a uscire di casa sguardandosi intorno in modo sconsolato, ma con anche un po' di consapevolezza del fatto che quello non è un problema, è un sintomo. E io nel salutare voglio ricordare una frase che ho sentito dire, però non stavamo registrando, perciò posso solo riportarla, da compagni francesi che hanno detto: ma noi non stiamo lottando per la pensione, ma stiamo lottando per una vita degna, non vogliamo finire come l'Italia. Peut-être.